presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, come sempre i giovedì sera alle 21.32 siamo qui, tranne giovedì scorso, perché giovedì scorso c'è stato uno sciopero indetto dagli operatori di Runtime Radio, quelli specifici di Quando eravamo futuro, cioè c'è il sindacato contro l'intelligenza artificiale. Sentite, infatti, Carlo Sant'Agostino. Eccomi qua, ciao. Buonasera, come sta Carlo Sant'Agostino? Buonasera. Beh, diciamo bene, dai, un po' preso in questi abbiamo giorni. Sentito che è un periodo di bestemmioni questi, insomma. Quindi, bravissimo. Esatto. Davide Gatti. E buonasera a tutti. E come anche lui è preso, anche io sono preso, ma non per il lavoro. Sono preso per altre cose. Bello. Ma va tutto bene. Ci piace che lasci bene. Il mistero è importante. Lasciamo il mistero, ma lo vedrete tutti. Sarà un mistero visibile. Mamma mia, ragazzi. Poi dopo, verso la fine della puntata, facciamo anche qualche annuncio relativo anche alle archeologie, che magari c'è qualcosa che succede ogni tanto, insomma ci proviamo sempre, ma abbiamo avuto un'idea e addirittura la stiamo anche mettendo in pratica, attenzione ragazzi, è una cosa insomma sconvolgente, mai successo prima, mai successo. Roberto Tomaiuolo. Ciao. E poi, cioè, noi saremo eccetera eccetera, da quanto ho capito dalla bagascia lì, eccetera artificiale. Esatto. La devi prendere con l'intelligenza artificiale, naturalmente. Chi ascolta non sa di che cosa stiamo parlando in realtà, dell'intelligenza artificiale. Sì, ma chi è? Qual è l'intelligenza artificiale? Quella che ha parlato fino a poco fa era un'intelligenza artificiale. Dici che non se ne sono accorti, ma l'ha detto no. Lo dice proprio, cioè nel senso lo so, ma è ancora più sospetto quando uno dice sto scherzando. Assolutamente. Ragazzi, questa sera si parla di un argomento, veramente un argomento gagliardo, che tra l'altro ho scoperto che molti di voi stavano aspettando, insomma, incredibile. Esatto. Parliamo della Lega, giusto? Sta arrivando il Cavaliere Nero! Quando il Cavaliere Nero lanciò la sua sfida, il castello venne chiuso. Tutti si misero in azione. Allarme, presto! Di corsa al ponte levatoio. Poi un controllo alle catapulte. È tutto pronto. È la resa dei conti, Cavaliere Nero. Legoland Castello. Avventure medievali da costruire e collezionare. Così, non c'entra un cazzo, a dir vero, perché, cioè, nel senso, non è che era, è rappresentativo dei Lego questa cosa. Era la pubblicità. Di un Lego, cioè di una dei vari modelli. Risveglia le memorie. In realtà è la prima che ho trovato, e quindi ce l'ho messa. Avrei potuto anche mettere successivamente in connessione a questa cosa la storia di Gigi Proietti e il Cavaliere Nero, però non era attinente, diciamo che non no, direi assolutamente. No. Attinente, ma faceva ridere, fa sempre ridere, devo dire la verità, fa sempre ridere. Allora, e io faccio prima di tutto, così lascio poi la parola a Carlo, faccio la dichiarazione sconvolgente della puntata, perché so che ogni puntata noi, voi sapete che io faccio delle sconvolgenti dichiarazioni che partono dalle sise della Barbie fino a cose così di questo genere. Vi devo dire la verità, che la dichiarazione sconvolgente di questa settimana è che io dei Lego non so un cazzo e non me ne è mai fregato niente, quindi io questa puntata faccio il regista, ecco, quindi quando mi dicono che brutta infanzia, metti che un brano brutta, lo so. Poi io non ci credo che non hai mai giocato con Lego. Stai dicendo solo perché non hai voglia di parlare stasera. No, ci ho giocato, ma non ce li ho mai avuti, veramente non ci ho mai avuto un Lego, devo dire la verità. Ha giocato a casa degli amici. Posso dire che ero un appassionato di costruzioni, ho avuto costruzioni anche importanti. Ho raccontato una volta di quel castello che costruimmo con mia zia, grandissimo, che però erano costruzioni. I Lego li trovavo sempre troppo nazisti. Cosa l'hai costruito? con una scatola di costruzioni fatta apposta per il castello, ma non erano Lego. è una costruzione, non è che esisteva solo i Lego, esisteva un'altra. No, calcestruzzo, capito? Calci e struzzi. Esisteva dell'altra roba, non so cosa. Va bene. Lui e la zia con la cazzuola e tutto. Prendiamo per buona questa scusa che non ti piacciono i Lego, che non è vero, perché è come dire non mi piace la Nutella. No, mia moglie, per esempio, è un'appassionata, lei vorrebbe comprare una casa dove avere una stanza dove poter costruire dei Lego. Cioè, mia moglie, per come esempio, tutti. È una passione. Io no, a me non me ne è mai fregato niente, perché... Ma non è vero. Ma non mi frega, no, non può fregare niente dei Lego. Cioè, questi pupazzetti che non c'hanno le dita. Cioè, allora, vi spiego una cosa. Io ho sempre fatto una grande fatica con tutte le figure antropomorfe irrealistiche. Cioè, nel senso, sempre in generale, questo su tutto, probabilmente. E infatti le zizze delle Barbie erano un po' più realistiche, insomma. Insomma, diciamo, se non altro la Barbie non c'aveva delle maniglie al posto delle mani, diciamo così, insomma. O dei buchi con un pirolino che veniva fuori per incastrarsi nei Lego. Va bene, dai. Facciamo un attimo seri, dai. Va bene. Allora, il fiume serio? Sul fiume serio, bravissimo. Posso, scusa, mi finisco, così mi zitto proprio definitivamente. Posso leggere un commento di Giulio Pavan sulla puntata scorsa che pare essere piaciuta? Non abbiamo avuto tanti feedback, però quei feedback, no, insomma, devo dire, pare essere piaciuta. Forse siamo arrivati, so, quegli argomenti che piacciono, però a volte toccano un po' la sensibilità. In realtà poi non abbiamo detto niente di che. Comunque, toccano anche altro. Esatto, non soltanto la sensibilità. Bravo, hai ragione. Simone, è un argomento legittimissimo degli anni 70 e 80, dal postal market alla diffusione delle VHS. Chissà se un giorno avrò il coraggio di dire a mia nonna che il postal market spariva era per colpa mia. Ma guarda che la nonna lo sta, noi valutiamo il postal market che aveva le pagine appiccicate fra di loro era colpa mia. Quanti postal market hanno fatto alla fine, come posso dire, anche illegittima, perché poi non era quella la sua funzione, diciamo così, però insomma, vabbè. Vogliamo salutare, chiudendo definitivamente, tutte le persone che sono in chat. Ringrazio Walter, vedo c'è Roberto Domaiuolo, pensate, in chat, incredibile. C'è anche Davide Gatti, Gatti, uno e Trino, esatto, insomma, vabbè, gente che parla fra di loro e via dicendo, insomma, vabbè, beh, via. Vai Carlo, parlaci di questo bellissimo argomento. Allora, la puntata la stavano aspettando, anche perché in realtà noi questa puntata l'abbiamo annunciata nella scorsa stagione, perché questa in realtà è la continuazione della puntata numero 6 della prima stagione, Il Paese dei Balocchi. Se non l'avete ascoltata, andate a riprendere, dove abbiamo parlato in generale dei giocattoli degli anni 70-80. E in quella puntata, ogni volta che dicevamo Lego, dicevamo no, quella ci faremo una puntata apposita. E quindi in realtà l'avevamo già, è una puntata lanciata questa, quella che faremo oggi. Infatti, sui io feci la copertina che mi fu corretta perché c'erano i Lego sopra la copertina. Esatto. Molto infatti, più Lego di quella copertina di oggi, tra l'altro. Bravo, perché quella copertina di oggi hai messo dei Lego finti, però fa niente. In realtà va bene lo stesso. Vabbè, ma oramai la gente lo sa che io non vedo. Non abbiamo ancora capito come mai l'ha chiamata Legosi la puntata, però vabbè. Legosi perché ricorda Legacy, cioè eredità, cioè il fatto che comunque questa è l'eredità dei nostri giochi da bambini che ancora rimane vivo dentro di noi. Legacy, eredità, Legosi, va bene, complesso. Vabbè, sì. Va bene, ma noi siamo per titoli non convenzionali. Bravo. La puntata è dedicata alla Lego, no? E sì, principalmente in questa puntata parleremo dei nostri ricordi con i Lego e di quello che ci facevamo negli anni 70 e 80. Però prima facciamo una brevissima introduzione storica, giusto per dare due o tre informazioni sulla Lego che magari non sono così note, no? La Lego, vabbè, noi sappiamo, è danese come azienda, è nata in Danimarca ed è stata fondata da, qui le pronunce lasciamole perdere oggi perché già facciamo fatica con quelle inglesi, figuriamoci con quelle danesi. Il fondatore si chiamava Ole Kirk Christensen, che era un falegname di Billund in Danimarca. Vabbè, Kirk, a produrre... dai. Capitano Kirk, va bene. Kirk. inizia a produrre giocattoli di legno, ovviamente, nel 1932. La società si chiamò la chiamò Lego perché la derivò da una frase, ecco, questo penso che lo sappiano in pochi, cioè come mai Lego si chiama Lego? Si chiama Lego perché in danese si dice Leg Got, che vuol dire gioca bene, da Leg Got Lego, ok? Quindi nel 47 fondò la Lego, quindi Lego in realtà vuol dire gioca bene, ok? Ah, io pensavo che significa sterminiamoli tutti o cose del genere, che all'epoca andava di moda questa cosa. Il danese somiglia un po' al tedesco, dici, quindi ti ricorda questo nazismo insito dei intrinseco sì. Va bene, comunque nel 47 Lego inizia a produrre giocattoli di plastica. Pensate che i giocattoli di plastica non erano così ben visti all'epoca, infatti è pensate che nel 51 che la Lego produceva giocattoli, la metà dei giocattoli che faceva era di plastica, ci fu una rivista commerciale danese, le famose ultime parole famose, la rivista danese si chiamava Toy Times, era una rivista specializzata che parlava di giocattoli, e visitando la fabbrica della Lego a Billund nei primi anni 50 scrisse che la plastica non sarebbe mai stata in grado di sostituire i tradizionali giocattoli in legno. Sì, sì, le ultime parole famose. Questo è quello che scrisse questa rivista. Comunque, ritorniamo. Allora, una delle altre cose che non molti sanno è che i mattoncini all'incastro non li ha inventati la Lego. No. Ma nel 49, quando... Io lo sapevo questo. Tu lo sapevi. Nel 49 la Lego, quando inizia a produrre i primi prodotti di plastica, comprò una macchina per la iniezione di molding, la stampaggio e iniezione delle forme di plastica, e nei vari campioni che ricevette per, insieme alla macchina per testarla, c'erano dei mattoncini autobloccanti Kiddycraft, brevettati in Inghilterra, nel Regno Unito nel 39 e commercializzati a partire dal 47. Questi mattoncini Kiddycraft, questa crisi è quella che appunto ha inventato i mattoncini in plastica autobloccanti, ed era uno sviluppo tradizionale dei tradizionali blocchetti di legno con cui si facevano le costruzioni. Li abbiamo avuti tutti, ve li ricordate i blocchetti di legno, quello a quadrato, cubetto, quello a forma di ponte, quello a piramide, classico. Il ponte verde, esatto. L'evoluzione di questo erano appunto questi mattoncini in plastica che erano anche autobloccanti, cioè avevano delle forme che permettevano un incastro, ok? Quindi in realtà la Lego inizia a prendere la licenza di questi Kiddycraft e inizia a produrre proprio questi mattoncini. Però la Lego, il suo fondatore, aveva un motto nella sua azienda, che è un motto che è nato dal suo fondatore per motivare i suoi dipendenti ed è ancora rimasto attualmente all'interno della Lego, e questo motto è questo, lo dico prima in danese: Det beste er ikke per Gott. Ah, che impeccabile il tuo danese, è veramente scorreggiato. Letteralmente è: il meglio non è eccessivamente buono, cioè vuol dire che solo il meglio va bene, cioè bisogna fare il meglio possibile. La qualità, cioè fare le cose bene, è sempre stato il motto che ha mosso i prodotti della Lego sin dall'inizio. Perdonami Carlo, però qui Google Translate dice che significa: i bambini orfani sono inutili e pesano sulle casse dello Stato. Questo io vedo, Infatti io so tutte queste traduzioni, ho moltissimi dubbi. Esorbitrarie, sono di sistema, come si dice. Vai, prego Carlo. Ridi ogni tanto, Carlo. È ancora quello utilizzato oggi alla Lego. Infatti, se noi pensiamo un attimo, in effetti, i Lego, a parte Pizzi, che però non è mai stato un bambino, quindi non è rappresentativo, tutti noi li abbiamo sempre amati perché, appunto, effettivamente ci pensiamo, erano veramente fatti bene. Cioè, i mattoncini della Lego perfetti a specchio. Allora, hanno una precisione di micrometri e soprattutto funzionano sempre perfettamente. Chi di noi non si ricorda una o due volte che ha avuto nella sua vita delle copie dei Lego, avevi sempre problemi a incastrarli, magari non si attaccava bene, oppure si attaccava troppo, oppure non si incastrava bene. I mattoncini della Lego invece hanno sempre avuto questa perfezione nell'incastro e soprattutto nella costruzione sempre perfetta, cioè se tu facevi un muro dei Lego era bello liscio quando tu li attaccavi tutti insieme dritto, perfetto. Questo deriva proprio dal progetto, infatti il progetto proprio dei mattoncini Lego non sono uguali a Kidicraft, perché Kidicraft li fecero all'inizio, poi il figlio del fondatore della Lego, quando ebbe l'idea di creare, poi quando era diventato l'amministratore delegato dell'azienda, l'idea di creare un sistema giocattolo, quindi proprio un sistema di giocattoli correlati da loro, una linea per il gioco creativo, si accorse che i mattoncini avevano dei problemi dal punto di vista tecnico, quelli che commercializzavano, la loro capacità era limitata nel bloccaggio, non erano versatili, e quindi ci mise 5 anni per sviluppare il moderno design dei mattoncini nel 1958. Fecero anche una ricerca per trovare il materiale giusto. All'inizio erano fatti non in ABS, adesso sono fatti in ABS, prima erano fatti in un altro tipo di plastica, adesso non trovo l'appunto, ma non erano in ABS. Guarda, se vuoi cercare l'appunto, intanto io leggo in chat che dicono che il danese di Carlo sembra Klingon senza sputi, ma in realtà su quest'ultima Capitano Kirk, sull'ultima affermazione dovresti chiederlo al suo microfono più che a noi, perché insomma esatto. Comunque il danese sembra Klingon, se lo sentite, quindi effettivamente è vero, vuol dire che l'ho pronunciato bene. Ok, comunque il brevetto dei mattoncini è stato depositato nel gennaio del 58, poi negli altri anni successivi nei vari paesi. La prima diciamo modifica dei mattoncini è stata l'invenzione della linea Duplo, quella per i bambini piccoli, ed è stata introdotta nel 69. Praticamente hanno raddoppiato le dimensioni in lunghezza e altezza dei mattoncini per renderli usabili anche ai bambini più piccoli. E questo devo dire che, avendoli introdotti nel 69, è un caso particolare che ho fatto caso, almeno per quanto mi riguarda. Io, essendo nato nel 70, io effettivamente la mia vita è stata scandita dalle versioni del Lego. Proprio nel 70, perché io mi ricordo che quando ero piccolo c'era già il Duplo, e quindi il Lego grosso. Poi quando ho iniziato a crescere hanno inventato il Lego, prima quello spaziale, quello meccanico, poi il Lego Technic, ed è uscito esattamente quando io volevo quello un po' più complicato, quello più tecnico, che avevo tipo 12-13 anni. Poi dopo, andando avanti, hanno iniziato ad aggiungere versioni fino ad arrivare poi a quello che vedremo in seguito nei vari modelli di Lego, tipo ai Lego Mindstorm, quello con il microcontrollore, che già finivo il liceo e andavo all'università, quindi l'ha accompagnato proprio nella sua evoluzione. La mia vita è stata scandita dalle versioni di Lego, dalle varie versioni di Lego. E tu l'hai vissuta proprio intensa, tutta, sì. Hai speso milioni. I miei genitori prima di me, poi io anche dopo, e anche quando sono nati i miei figli. Anche perché i Lego potevi dire tutto tranne che fossero economici, poi tutto sommato non lo sono mai stati, quello è vero, ma in effetti se pensi al fatto che comunque loro, quello che qualcuno puntava alla Lego era la qualità, ci sta, nel senso che in Lego effetti è per sempre, cioè, se tu lo prendi un Lego del 1970 oggi funziona ancora. Infatti a tutti i giovani ci ascoltano, andate dalla vostra fidanzata e regalategli un Lego che è per sempre, vedete che cosa succede. Potresti anche beccare un regalategli la scatola con la quale puoi creare un anello di diamante. Ci fu una polemica sul Lego perché pare che resistono in acqua, quindi nei mari, per 1300 anni. È vero, è vero. Infatti c'è anche dopo una cosa da dire quando ci fu il naufragio della famosa nave container nella manica, che poi per anni trovarono i pezzi di Lego sulle spiagge sulle coste francesi. E beh, a gradi se ho, scusa. Sì, ma guarda che c'è un mercato anche di quelli, è incredibile. Poi per assurdo furono dei modellini che, se non mi ricordo male, proprio di modellini marini con le alghe, con le conchiglie, eccetera. Quindi si trovava proprio quello, il Lego a forma di alga. Sento già Tomaiolo che sta su eBay, eh. Comprato tutto. Una cosa famosa della Lego sono le minifigure, cioè i mini omini, quelli che appunto odi tu, Simone, perché hanno le mani a forma di pinza, ma odia, ho saputo che anche Davide ha un odio per queste minifigure. Sono nate nel 78 e prima di queste la Lego aveva degli omini più grossi con il testone gigante, con i piruli sulla testa per agganciare le cose, le mani snodabili, erano molto più grandi quegli omini della Lego prima, e sono durati poco comunque, perché poi le minifigure hanno avuto un successo incredibile, sono nate con un kit dello spazio, quindi infatti la loro forma è nata sulla base delle tute spaziali degli astronauti della NASA, cioè hanno quella forma lì perché i primi minifigure erano degli astronauti in realtà, però poi hanno mantenuto quella forma e sono diventati di tutto e di più, come sappiamo. Comunque altre due o tre informazioni divertenti sulla Lego: uno è il fatto che dal 54, dai primi pezzi, sono ancora compatibili con quelli di adesso, cioè se noi prendiamo un pezzo di Lego del 1954 lo possiamo ancora incastrare adesso sugli attuali Lego, quindi quella misura lì, quella forma è rimasta per sempre praticamente. Il modello più grande mai creato è un modello di scala 1:1 di Star Wars, di un ala X di Star Wars, fatto da 5 milioni di mattoncini, esposto a New York. E poi altri record sono stati una costruzione di una torre alta 34 metri e una ferrovia di 4 chilometri. Dal 2015 il marchio Lego è stato classificato nella classifica dei brand di Brand Finances come marchio più conosciuto al mondo, e ha superato la Ferrari dal 2015. Quindi in questo momento Lego è il marchio più conosciuto nel mondo in assoluto, più famoso, più potente, diciamo, quello che ha più però ricordo un periodo in cui era caduta molto molto, è stato alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90 più o meno, c'è stato un periodo non molto felice per la Lego, che poi hanno recuperato prendendo il franchising delle produzioni famose, quindi iniziando a fare i Lego di Star Wars, i Lego di Batman, i Lego c'è un documentario su Netflix. Sì, l'ho visto. Beh, abbastanza bello, che spiega moltissime cose. No, lo dico anche perché lo sto per guadagnare tempo, ci sto guardando nel conto bancario, non vedo però l'accredito della Lego, quindi insomma andiamoci piano. Comunque il set di mattoncini standard, i mattoncini classici sono quelli formati da 4 perni per 2, no? Il classico mattoncino. Sì. 6 mattoncini di quel tipo lì possono essere combinati in 915.103.765 modi diversi. Quindi diciamo che sviluppo un po' la fantasia, ecco, mettiamola così. Comunque per me il Lego è stato e rimane il gioco più bello del mondo, però questo de gustibus ovviamente. Io, come ho detto, la mia vita è stata scandita dalla Lego in vari momenti della mia vita, nelle sue varie versioni. Comunque adesso per parlare possiamo anche lasciare la parola per esempio a Davide, che ho visto che già ha commentato nella riunione che facciamo nella prediretta diverse cose fatte con il Lego, ma soprattutto vorrei sapere se avete fatto delle cose che non proprio diciamo standard con i Lego, cioè, attenzione, io sì, potrei far sempre tranne Davide, tranne Simone che non ha fatto niente, Davide magari ho delle cose che non sono così, delle cose strane con i Lego. Avete fatto delle cose strane? Non sessuali, ovviamente. No, sessuali no, anche perché non ne avevano quella forma proprio, hai capito? No. Diciamo che non ispiravano, non ispiravano. Non era proprio, non erano adatti, però diciamo che per la sua versatilità e per il fatto che più o meno tu avevi in mente qualcosa e la potevi fare, e finché era il classico voglio fare la macchinina, la casetta, il trenino, va bene. Poi dopo, quando inizi a fare qualcosa di più e magari anche in altre aree, magari io lavoravo, armeggiavo già con l'elettricità, l'elettronica, le cose, e mi serviva sempre qualcosa per far stare in piedi le mie creazioni, magari anche non funzionanti, quello che vuoi, si usavano i Lego come fosse un pezzo di legno che tu metti assieme, lo inchiodi e ti fai il pezzo per tenere in piedi le cose. Con i Lego era un attimo, andavi lì, facevi il tuo coso e stava in piedi. Poi dopo magari non era bello da vedere, non aveva l'aspetto professionale, ma intanto faceva il suo lavoro. Comunque, tralasciando adesso velocemente, infatti io voglio precisare, giusto per correttezza anche nel nostro pubblico, che Davide Gatti poi alla fine è l'anello di congiunzione tra Majorana e Tesla, chiaramente, quindi sono giusto per tirare fuori dei nomi così a caso. Non esageriamo ragazzuoli, però e a parte, diciamo, dopo magari lo racconterò per altri motivi, ma l'ho già raccontato in realtà in alcuni podcast, queste cose che vi sto dicendo adesso in maniera molto più sintetica, però in particolare una roba che di uso improprio e anche abbastanza pericoloso, se vogliamo, praticamente attraverso un motorino della Lego, uno di quei motorini che si possono collegare ai vari ingranaggi eccetera, ho fatto un aggeggio che faceva girare con degli ingranaggi un meccanismo che ricorda un po' un pistone dell'automobile, mettiamola così per darvi un'indicazione. Su questo pistone ci ho attaccato un filo elettrico del 220 volt e sopra, attraverso degli altri Lego, tenevo altri tre fili, e questo pistone andava avanti e indietro e toccava i tre fili sopra, avanti e indietro. Questi tre fili servivano per alimentare un gruppo di lampadine, e questo motorino mi faceva la rotazione delle lampadine, mi faceva le luci rotanti, e avevo fatto tipo la mia stanza con le luci che faceva un po' tipo discoteca, c'erano le luci psichedeliche eccetera, e le luci rotanti me le faceva ruotare questo meccanismo fatto con Lego, con il filo che faceva le scintille, capito? Si muoveva, che c'era il 220, cioè uno andava a toccare, non era piacevole, però intanto era sfruttato come un relè rotativo, se vogliamo, per fare la sequenza delle luci, come tante altre cavolate che ci ho fatto sempre a livello elettrico, perché i Lego comunque mi consentivano di costruire quello che mi serviva. Ho fatto un contenitore per una radio una volta, una radio in realtà, ho smontato una radiolina, ce l'ho ficcata dentro un coso di Lego, ci ho messo fuori la manopola e ho raccontato che ho costruito una radio, vedi, senti, con i Lego, mi dico, cazzo, una radio con i Lego, invece era una radio travestita, però sai, la gente non lo sapeva, mi diceva, cazzo, si sente la radio, cioè, fatta di Lego, miracolo, invece. Ma perché erano i Lego, capito? Cioè tu dicevi, con i Lego tu puoi costruire qualsiasi cosa e poi dopo diventa vera, capito? Quindi esatto. Comunque, comunque in chat, scusa, ti interrompo perché sì, giustamente Davide ha postato alcune foto. Sì, Davide Walter ha postato alcune foto di una mostra che ci fu a Roma a febbraio del 2020, prima del lockdown, una ovviamente la mostra dei Lego. Michela ci dice che invece lei l'avrebbe accettato il Lego, regalo come, di Lego. Come regalo. Salutiamo Pier G che c'è venuto in A proposito, che ricordi una mostra, e mi sembra proprio che fosse in Italia, c'è stata una mostra dove avevano messo tanti oggetti molto grandi, e mi sembra che c'era forse un Titanic o qualcosa del genere, che dei ragazzini si sono piazzati sopra e l'hanno distrutto. Sì, l'abbiamo raccontato in Morti di Bestemmie questa cosa, perché in realtà fu un bambino che giocava, armeggiava, insomma, avevano già capito un po' come sarebbe andata a fine. Lui ci si è praticamente tuffato sopra, era un enorme transatlantico, sì, una nave, penso forse Titanic, qualcosa del genere, e praticamente i genitori, mortificati per la scimmiaggine di sto ragazzino, hanno detto, vabbè, no, poi pagheremo magari le conseguenze e via dicendo, insomma, magari contribuendo alla ricostruzione e che ne so. E poi dopo, però, quando sono tornati a casa, hanno dato mandato al loro avvocato, perché giustamente il bambino non ha colpa, perché i bambini sono bambini, cioè questa è l'educazione. Certo. Colpire bambini con dei bambini. Bravo, vedi che hai ascoltato le nostre trasmissioni. E poi vabbè, invece io ho raccontato, diciamo, quello che era una roba magari un po' fuori standard, poi dopo al limite facciamo parlare un po' anche gli altri, poi magari racconterò invece cose un po' più tradizionali, un po' più, diciamo, normali, ma non proprio normali. Non so, Roberto, com'è il tuo rapporto con i Lego, Roberto, che ancora non hai proferito parola? Perché non c'è un grandissimo rapporto con i Lego, li ho avuti, ci ho giocato, mi piacevano, però non erano il mio gioco preferito nella maniera più assoluta. Era meglio la gnocca, giustamente. Era meglio la gnocca o il computer, sai, queste due cose che stranamente si tengono, alcuni non lo sanno, però in realtà è così. La cosa che mi piace, mi è sempre piaciuta dei Lego, comunque la, come posso dire, la flessibilità, perché davvero era possibile fare le cose piccolissime di cui ci hanno parlato Carlo e Davide, ma era possibile fare cose enormi. Cioè, con il Lego hanno fatto ponti di 31 metri, hanno fatto case, hanno fatto auto. Cioè, qualche miliardario, sì, perché per fare una casa ci no, ma, due no, ma in realtà anche qualche appassionato che c'ha molto tempo da perdere. Qualche appassionato, non è. La cosa bella è l'incredibile versatilità di questi mattoncini, che è affascinante, c'è poco da dire. Quindi questo è il mio pensiero. Non ci ho giocato tantissimo, sinceramente. Ma a Legoland nessuno di voi ha mai desiderato andare a Legoland? Desiderato no, però dice, nel senso, non è una mia priorità, però mi piacerebbe andarci, sì. Comunque vabbè, hanno gli anni 80, 70-80 c'è anche da dire che, per esempio, a me il Lego Technics mi affascinano anche. Cioè, non è roba che, oddio, che schifo i Lego, gli sputo addosso. Cioè, non ci ho avuto mai a che fare più di tanto. Non hanno mai transitato davanti a me più di tanto. Ecco, questo è. E quindi ovviamente non c'ho un'esperienza. È come su tutte le cose che magari non hai percepito, non hai neanche un'esperienza, non hai neanche sviluppato una passione, capito? Quindi. So, come il modellismo, sai, sono quelle cose che sono belle, cioè affascinano, però. Però lasciamo il modellismo, no? Che anche lì quanti soldi, mamma mia. No, di Legoland c'era il mito quando eravamo piccoli, quando ero ragazzo, sicuramente, che era una cosa che sapevi che c'era, ma nessuno, almeno io non ho mai conosciuto nessuno che ci sia andato a Legoland, veramente. Ho visto tre foto io di Legoland. Sì, Topolino, c'erano gli articoli su Topolino e tu dicevi, oh, chissà che roba che sarà, eccetera. Anche però perché non era proprio esattamente dietro l'angolo negli anni 70. No, esatto. Però se non lo sapete, dall'anno scorso hanno aperto una Legoland all'interno di Gardaland. Quindi io quest'estate ci sono andato e all'interno di Gardaland, il parco famoso sul lago di Garda, adesso c'è anche dentro una Legoland, quindi dove c'è tutta un'area con i giochi acquatici a tema Lego e poi proprio un'esposizione Legoland classica, dove vai con la città tutta costruita di Lego, con i monumenti, le cose, eccetera. Tutto. Quindi se qualcuno vuole, chi è rimasto a desiderio, adesso è più semplice perché è qua abbastanza vicino, insomma, non è proprio dall'altra parte del mondo. E immagino i figli di Carlo che lo guardano, ma guarda che vergogna questo padre, che vergogna. No, i miei figli sono più matti di me del Lego, anche loro, quindi sei riuscito a soprattutto avanzare. No, ma non solo io, vabbè, poi la Lego se siamo un giocattolo intergenerazionale, devo dire che effettivamente non mi viene in mente nulla di più del Lego, cioè non il giocattolo fisico intendo, non videogiochi eccetera, però il giocattolo, un giocattolo che veramente attraversa tutte le generazioni. Beh, Lego e la Barbie, guarda caso. Vabbè, la Barbie femminile, certo. Sì, però, no, però ci sta, è giusto. La Barbie, no, mi è piaciuta a me la Barbie. Concordo, perché non capisci niente. Ma no, noi eravamo già avanti, davamo quel posto al market. È vero che non potevi sentire la tridimensionalità, però vabbè. Comunque, dicevo, per esempio, la Lego, vabbè, a parte rinnovarsi sempre ogni anno, trova sempre dei modi per stare, diciamo, a galla e comunque essere sempre tra i giocattoli più venduti al mondo. C'è una cosa divertente che ho scritto nel documento, in cui mi ha risposto anche Davide, dove ha scritto addirittura pensavo proprio che fosse un prodotto della Lego. Cioè, quando è nato Minecraft, Minecraft non era della Lego, non è della Lego. Minecraft il videogioco, concettualmente è un Lego virtuale, se vogliamo, no? E dal grandissimo successo che ha avuto, ha fatto il percorso al contrario, cioè Minecraft facendo un Lego virtuale che ha avuto successo, ma non essendo della Lego, poi la Lego ha preso i diritti di Minecraft per fare il Minecraft fisico della Lego. Infatti mio figlio, le prime scatole di Lego che ha voluto erano quelle di Minecraft, Lego Minecraft, dove praticamente avevi i personaggi del videogioco e le ambientazioni del videogioco, però le rifacevi con i mattoncini della Lego fatti della Minecraft. Sì, io penso che Minecraft prenda molto spunto come concezione da un certo punto di vista, anche se sono due cose completamente diverse. Il Lego che prende riferimento da Minecraft invece poi in effetti è un'operazione intelligente, anche perché va a prendere una generazione. Ricordiamo che Minecraft praticamente è il gioco che ha incassato di più nella storia moderna dei videogiochi, cioè proprio, sì, proprio recentemente mi sembra che è uscito proprio un articolo che attesta proprio il fatto, attesta a Minecraft proprio il gioco che ha incassato di più nella storia dei videogiochi, quindi alla fine vedi che poi soprattutto è un long seller Minecraft, cioè un videogioco che continua a vendere, esatto, anche esatto, se diventa vecchio, esatto. Ragazzi, poi... ma vogliamo dare ragione a Pier Grippa, che ci ricorda che la forza dei Lego e la versatilità può essere usato per giocare e come strumento di tortura se li trovi sul pavimento a piedi scalzi. Questo viene anche citato nel film della Lego, sì, esatto, diverse volte, ecco. Sì, in effetti sì, quello me lo ricordo. Ecco, poi c'è anche da introdurre tutta la forza che ha avuto Lego di diventare anche un'azienda cinematografica, un'azienda di produzione di film, che è una cosa che nessuno avrebbe mai pensato. Invece a un certo punto hanno iniziato a fare film con i personaggi Lego, anche rivisitando magari i personaggi famosi come appunto Lego Batman, che ha avuto un successo clamoroso, come tutte le versioni dei supereroi Marvel e DC in versione Lego. Beh, Batman è finissimo, Lego Batman è un film che mi ha fatto morire dal ridere veramente. Sono stronzate, perché diciamo la verità, sono stronzate. Però devo dire che Batman in particolare secondo me è la cosa più riuscita all'interno di questo contesto. E comunque i film della Lego hanno avuto e stanno avendo comunque un grandissimo successo, quindi anche lì veramente è stata un'altra modalità di fruizione di questo mito dei mattoncini, che è diventato veramente un impero ormai. Sebbene io non sia un grande appassionato, cioè penso che ogni anno esca un film, forse, no? Un po' meno, però diciamo che ogni volta che esce è un successo al botteghino, cioè, quindi è sempre un'operazione di successo, sì, senza poi contare poi tutto l'indotto, esatto, poi che fanno il videogioco, e tutte le costruzioni relative al film, esatto. E quindi esatto, quindi allora negli anni Lego ha sempre mantenuto, secondo me, come ho detto, il suo successo anche rispetto a tutte le copie della Lego che ci sono state negli anni. Il successo della Lego è proprio dovuto alla qualità della Lego rispetto agli altri giochi. Però questa è una mia ipotesi, dite voi la vostra, cioè se per voi così, come mai? Beh, credo che Lego sostanzialmente quando un prodotto perdura così tanto, ci sono due fattori fondamentali: uno, magari il modo in cui ha operato nel mercato, quindi la sua capacità di essere penetrato tramite il marketing, e due, sicuramente anche la qualità del prodotto, perché il marketing secondo me arriva fino a un certo punto, poi se il prodotto non esiste, e poi è comunque roba colorata, roba semplice, dall'impatto non che non mette a disagio, no, in generale, quindi secondo me la funzionalità è il fatto che comunque è un oggetto, anzi sono giochi, comunque giochi, costruzioni per tutti, no? Quindi alla fine, e secondo me la qualità, sì, da sto punto di vista io associo molto la Lego alla Vesco, che è praticamente un'azienda che produce, diciamo, non so se ci avete presente quei tappeti verdi per i bambini, no? Cioè, nel senso, quei tappeti gommosi antiurto per i bambini che di solito si vedono nelle biblioteche, le casette, quelle piccole per i bambini, tutti quei prodotti pseudo plasticosi, però comunque fatti in maniera tale che comunque l'ha fatti diventare poi un leader assoluto all'interno di quel tipo di mercato, no? E quindi, ecco, secondo me, ti ho detto, un po' fa il marketing, un po' sicuramente la qualità del prodotto che voglio dire è immortale, ragazzi, cioè stavano lì, stavano messa, sì. Di quanto stiamo parlando, abbiamo detto a livello, insomma, fai conto dal 54 praticamente, comunque sicuramente 58 il sapersi rinnovare è visibile a tutti con la Lego, perché non manca mai, non perde quasi mai un colpo e non manca mai un'occasione di uscire col prodotto giusto nel momento giusto. È difficile, magari negli anni 80 si è avuto un momento di non si capisce bene, cioè, c'è stata una, forse il mondo del giocattolo è cambiato e non sono stati pronti più di tanto, non subito, sì, esatto. Invece adesso sono molto allineati, cioè quasi in tempo reale esce il prodotto giusto del filone giusto, e quindi il marketing, non so se è marketing o è sì, marketing, diciamo, sicuramente è molto, marketing è molto in gamba. E poi vabbè, anche perché parliamo anche un attimino, io parlo dei miei tempi, parlo degli anni 70-80, c'è stato ovviamente il filone, era buono, è come dire, se io faccio un bel gioco qualcun altro ci può anche provare e dire chissà, magari riesco a fare qualcosa di meglio, qualcosa di alternativo che comunque può avere il suo successo. E quindi molti cloni, o molti, io non ne conosco moltissimi, però sicuramente è uno molto famoso, e non so neanche magari se era un prodotto italiano addirittura, Plastic City, che forse tutti voi si ricordano, forse. Ma io me lo ricordo, mai Plastic sentito City, sì. Sì, era quello che vendevano nei fustini, Plastic City. Esatto. Ah, allora sì, allora sì, allora ok, sì. E era più a buon mercato, sì. Era molto simile, non era compatibile, nel senso, no. Aveva una forma leggermente diversa, più grossa, sì. Insomma, aveva gli stessi elementi, era molto molto simile come logica, come tutto, come pezzi, colori, quello che vuoi, però era, cioè proprio era noto, tu compravi un Plastic City che poi era quei regali sfigati che ricevevi, no, voglio i Lego, alla cresima ti arrivava il Plastic City e tu no, volevo i Lego, e tu devi sorridere e dire grazie zio, grazie, poi lo buttavi via, lo so, ci provavi anche, magari lo provavi, vedevi che non era compatibile, lo abbandonavi, però io ci ho giocato un po' perché qualcuno mi è arrivato. E vi giuro, cioè, l'ho visto con i miei occhi, cioè quello arancione dopo un anno era diventato arancione sbiadito, cioè cambiava colore, si piegavano, diventavano, si deformavano, cioè erano prodotti di bassa qualità, costavano meno, erano di bassa qualità, duravano meno e sono morti. E nonostante il potenziale era uguale, no? Potenzialmente potevano avere lo stesso identico successo, se erano fatti bene, funzionavano bene, erano uguali, uno doveva solo scegliere A e B, no? Però sceglieva magari quello che costava meno, perché sai, se costa meno è meglio, ma la qualità non c'era, e quindi il prodotto comunque quando te lo regalavano ti dicevano no, non lo voglio, cioè non lo buttavi. Dobbiamo anche ricordare che gli anni, il brand è importante. Il brand è importante, cioè. Sì, ma negli anni 70, certo po'. Sai, il brand sì era importante, ma non così. Per esempio, un'altra azienda, l'unica che sta dietro alla Lego facendo la stessa cosa, è la Mega Bloks. La Mega Bloks, okay, che è un'azienda, sì, americana, ha copiato in tutto e per tutto la Lego. Sono anche compatibili, oltretutto, i pezzi della Mega Bloks con i pezzi di Lego. E è l'unica che sta dietro un po' alla Lego, perché utilizza sia dal punto di vista qualitativo, è molto simile alla Lego, e sia anche dal punto di vista del marketing, si fa la guerra con delle licenze con la Lego. Per esempio i Minion non sono della Lego ma sono della Mega Bloks. I Pokémon non sono della Lego ma sono della Mega Bloks, quindi anche lì, però la Mega Bloks è molto più famosa in Italia, è arrivata tardi, infatti noi non la conosciamo, perché è nata già negli anni 70, ma era negli Stati Uniti solo, e poi è arrivata in Italia molto dopo, perché credo che ci siano state diverse cause in atto tra, ovviamente, tra la Lego e la Mega Bloks sui diritti dei mattoncini, che poi alla fine la Mega Bloks l'ha spuntata, perché alla fine credo che una diatriba internazionale sia stata risolta sul fatto che non si può brevettare il concetto di mattoncino, la forma del mattoncino, insomma, cioè è un concetto. Beh, diciamo che siamo un po' al limite come cosa, contesto, sì. Perché io ti dico, le costruzioni, cioè non possiamo brevettare il concetto di costruzioni dei mattoncini, però se poi comunque quei mattoncini hanno quel pattern, diciamo così, e tu lo copi, secondo me già entriamo, insomma, in un contesto. Poi il problema è che se è un'azienda europea che sfida un'azienda americana, per la legge l'azienda americana c'ha sempre ragione, quindi non c'è proprio discussione. Comunque volevo dire, in merito un po' a quello che dicevate anche, che secondo me negli anni 70, che poi è stato, come dicevamo anche nella puntata in cui abbiamo parlato nel mondo dei balocchi lì, insomma, non mi ricordo come si chiamava, è stato il periodo in cui sono esplose, no? È esplosa un po' l'industria del giocattolo, per come l'abbiamo poi conosciuta successivamente. Ed è vero, come diceva Roberto Tomaiolo, che il marchio è importante, però è vero che il concetto di marchio è una cosa che noi abbiamo acquisito anche come consapevolezza magari più negli anni 90. Negli anni 70 tante volte, 70-80, magari tante volte noi abbiamo dato per originale un qualcosa che invece era tarocco, cioè nel senso che arrivava da noi come prima battuta e che però magari era la copia di un qualcosa che da noi ancora non era arrivato. Quindi, insomma, in realtà era, secondo me, come prima battuta, sì, come prima battuta hai totalmente ragione, però esistono alcune marche che personificano a un certo punto quella cosa. Quindi ormai si fanno anche altre cose che non hanno niente a che vedere con il Lego, che però anche nelle costruzioni, in cui se prendi la brochure c'è scritto sono praticamente come dei Lego, cioè si usava per spedire negli Stati Uniti, si parla te lo FedExo tra virgolette, o la Xerox per le macchine copiatrici. Sì, sì, vabbè, tu dici quando poi una cosa diventa un fenomeno, cioè di costume riconosciuto, come, esatto, il Walkman o l'iPad o tutte, o la PlayStation nel caso dei videogiochi, no? Diceva, qualsiasi videogioco è PlayStation. Era la PlayStation, esatto, insomma, quindi questo, se tu regali a qualcuno non so Mega Block, però io penso che se un ragazzino gli porti Super Block te lo tira dietro, cioè, perché, vabbè, sì, oggi poi, se io però devo dire la verità, mo non lo so perché non ci ho avuto l'esperienza così come quella di Davide, però a me oggi il ragazzino, secondo me, sì, cioè ci fa molto più caso a questa cosa. Io quando ero ragazzino mi portavi il gioco, ero contento comunque, cioè perlomeno, poi insomma magari Davide era un po' più sofisticato, un po' faceva un po' più la fighetta, insomma, però. Vabbè ragazzi, facciamo una piccola pausa, poi mi rispondi, così almeno sentiamo un attimo questa cosa che giustamente Carlo ha citato. Ancora in cima alla classifica è meraviglioso. Adoro questa canzone. È meraviglioso, fa parte di un team. È meraviglioso, metti sempre la freccia, parcheggia nelle strisce. Sì. Passa in lavanderia prima delle 12. Notizie principali. Ricordati di sorridere. Ti fa sempre per la squadra locale. Vai, squadra locale! Restituisci i complimenti. Ehi, siete forti. Anche tu! Bevi caffè super costoso. Ecco, sono $37. Meraviglioso! È meraviglioso. Avete visto dove sono i miei pantaloni ieri sera? Tesoro! Dove sono i miei pantaloni? Episodio classico. È istruzioni in arrivo dalla centrale. Ok, tutte le cose strane fatele saltare in aria. Allora, teste di cubo, facciamo esattamente come sulle istruzioni. Ehi amico, una serratura 1x2. Arriva Michael. Per noi un maccherone 2x2. Un maccherone 2x2 al volo, eccolo man. Attenti ragazzi, io ho un 1x1 con un bottoncino da un lato. Slopino, slopino, avanti gente. Roger, Roger, occhio, sta arrivando. Posso avere un paio di lorb qui? Grazie Gabe. Ehi ragazzi, guardate come lo fisso. Vabbè, è inutile dire che ideologicamente è un abominio questa canzone, così come tutto il contesto. Hai visto il film, tu, sì, no? Sì, l'ho visto, sì. Il film appunto è quella canzone lì era quello, il mondo sbagliato, cioè il fatto che c'era questo dittatore che faceva esattamente seguire le istruzioni di montaggio e lasciava perdere la creatività. Infatti lo scopo del film del primo film del Lego Movie era quello dove appunto si vedeva la differenza tra quelli che poi seguivano perfettamente le istruzioni, dovevano fare esattamente il modellino, e poi invece la libertà del creatore, dei creatori, che erano questi bambini che inventavano poi il, come abbiamo fatto tutti noi, quei pezzi di Lego, tutto quello che volevano. Io adesso non l'ho detto prima, la mia esperienza personale con Lego, come ho detto, è stata lunga, ma soprattutto è stata molto creativa. Cioè io quello che facevo con il Lego da piccolo era costruirmi i giochi che volevo. Mi ricordo alle elementari, c'è stato il momento dei robottoni, a cui abbiamo fatto la puntata, se non avete sentito andate ad ascoltare la puntata sui robottoni. E mi ricordo il Vultus 5, che era questo robot gigante che era formato da un'astronave che si incastrava con altri quattro robot che diventava un robot gigante. E il giocattolo costava un'esagerazione, quello rosso che si montava, e quindi io cosa ho fatto? Mi sono costruito il Vultus con il Lego, e l'avevo costruito completamente trasformabile, quindi esattamente come il cartone, l'astronave che entrava dentro con le braccia che si attaccavano, che diventavano robot, che attaccavi e diventavano le due braccia, le due gambe, ed era, me lo ricordo nella mia memoria, gigante. Adesso ero piccolo, quindi dovevo rifare delle proporzioni, però sarà stato almeno un 50 centimetri di altezza di robottone. E così come tantissime altre cose me le sono costruite con i Lego, fino ad arrivare poi negli anni, quando sono cresciuto, quando per esempio già ormai la mia passione era diventata l'informatica e programmavo con il mio fermaporta, come lo chiama il buon Davide, cioè con Sinclair ZX Spectrum. Per esempio avevo costruito tutta una scatola dove mettevo dentro lo Spectrum con l'alimentatore eccetera, e avevo costruito il pulsante, all'epoca non c'erano le ciabatte, quelle con il tasto di accensione, le hanno inventate dopo, no? Le ciabatte, quelle con il on off, e quindi mi ero costruito con un interruttore recuperato non so dove, gli avevo fatto tutta la scatola intorno fatta di Lego, e questo interruttore era quello che utilizzavo per accendere e spegnere tutto il sistema, quindi Spectrum, floppy, televisore eccetera. Hai pulsante. Fatto l'interruttore per accendere un fermaporta, cacchio. Ecco, che fantasia che avevi comunque. Senza contare poi per esempio altri esperimenti strani, per esempio con il trenino della Lego, la carrozza motrice, l'avevo utilizzata per creare un sistema di apertura automatica della porta della cameretta, perché quella motrice aveva una forza paura, andava lentissima, ma aveva una forza di traino incredibile, perché era fatta per trainare i vagoni fatti di Lego grossi dell'epoca, quindi non il Lego Tecnico, erano molto pesanti. Cioè, quindi tutta una demoltiplica fatta da una trenaggi, demoltiplica incredibile, aperto, no? Sì. E quindi riusciva a aprire e chiudere una porta, e quindi l'avevo agganciata alla porta, e questa qua con, sempre con l'interruttore a distanza, schiacciavo on, partiva la mia la motrice e si apriva la porta in automatico, l'apertura della porta della cameretta in automatico e chiusura. Giusto per dire due cose che avevo fatto. Se ti ricordi, se qualcuno si ricorda, nel Luna Park, parlo sempre degli anni 80, c'erano i go-kart. C'era quel percorso che si girava, a un certo punto il percorso, un braccio pilotato da un motorino che aveva una ruota, un pneumatico piccolino, girava e spostava un braccio che faceva entrare nel box e finiva il giro per, non so, magari durava 5 minuti, no? Tu entravi, facevi il tuo giro in tondo, con tutti e poi girava sto braccio che era trasportato da una rotella con il motore, e quella è l'idea per far muovere la porta, era la stessa cosa, era un motorino con una ruota, tu hai preso un motore Lego con quattro ruote probabilmente, esatto, che apriva la porta, era la stessa cosa che... Vabbè, allora, visto che si sta parlando di questi ricordi, vabbè, vi ricordo tanto, scusa, almeno... salutiamo anche Angela in chat. Vi ricordo comunque ci sono già almeno un paio di podcast, poi al limite metteremo i link nel quale ne ho parlato, uno in particolare dove appunto mi pare che si chiami Giocattoli, qualcosa del genere, dove raccontavo appunto un paio di casi, ma giusto così. Uno, vabbè, che avevo costruito con tanti, avevo tantissimi Lego, poi all'inizio li tenevo nelle scatole con quello del trenino, poi alla fine è diventato il solito mucchio gigante, il cestone che io le mettevo nel fustino del Dixan all'inizio, poi alla fine è diventato una specie di sacco gigante che tu chiudevi oppure lo aprivi e occupava tutta la sala, e ce l'ho ancora io questa avevi cosa. La montagna di Lego, ti tuffavi dentro e cominciavi a fare quello che volevi, no? E in realtà avevo costruito un veliero che avevo guardato, se non mi ricordo, su un topolino o qualcosa, e l'avevo cercato di rifare molto grande, sfruttando tutti i pezzi che avevo con tutti i colori brutti, insomma, non potevo avere tutti i colori che ci sono adesso per fare queste realizzazioni che vediamo, che hai 100.000 cubetti verdi, 100.000 cubetti rossi e ti fai tutto bello, no? Io era tutto multicolor perché usavo tutto quello che avevo. E ho fatto questo veliero con l'albero, le vele, una roba grossa, ma molto grossa, che quando avevo finito, mia madre, che era passata di lì, si era spaventata, l'ha visto e ha detto, ma l'hai fatto tu? Sì, ha chiamato mio padre, vai fino a vedere, ha chiamato tutti, ha chiamato i vicini di casa, ha fatto un casino, ma guardate cosa ha fatto, guardate che roba. E io ero rimasto un po' strabiliato, avevo 10 anni, ero un ragazzino che avevo replicato guardando un'immagine di un veliero, probabilmente di Topolino, rifacendolo più grande, quindi proporzionalmente con quello che avevo, ed è venuta una cosa bella. Peccato non avere una fotografia di questa cosa. Questa opera. Esatto. Neanch'io del mio vostro. A un'età un po' più grandicello, forse 11-12 anni, forse questo l'ho raccontato questo podcast, dove per molti mesi c'era una gru davanti a casa mia che costruiva un edificio, e quindi io lo vedevo sempre dalla mia finestra e vedevo come funzionava, no? Vedevo il funzionamento, che tirava avanti e indietro una carrucola, c'erano dei cavi che spostavano le cose. Insomma, l'ho guardato, alla fine mi sono costruito in camera da letto una gru alta, ma secondo me un bel metro e mezzo, con i binari del treno che facevano la parte lunga con tutti i cavi che la tenevano col contrappeso dietro, uguale, l'avevo rifatta ed ero gasatissimo con 3 motori Lego che si pilotavano con quei 3 scatolini con la levettina, che se le ricorda, quelle scatolettine con le batterie dentro, che tu giravi la levetta, andava a destra, a sinistra e potevi anche regolare la velocità. E ne avevo fatto questo set di 3 scatolette per fare da avanti e indietro, su e giù e ruotare la gru. Bella grossa, e anche lì mia madre mi dice, adesso come facciamo qua a dormire, a mettere giù i letti, perché vivevamo in 3 in una camera da letto dove c'erano delle specie di letti che si chiudevano e andavano a finire dentro un armadio e c'era lo spazio per giocare. Però la sera quando si dava a letto bisognava tirare giù i letti. Questo è tipico degli anni 70, le stanze con i letti che si tiravano dentro gli armadi. Esatto, e noi eravamo in 3, un letto fisso e 2 mobili così, e noi più piccoli dormavamo nel letto vero, ci dormiva il fratello più grande, e vabbè, però lo spazio era quello che era e bisognava toglierla, cazzo, eravamo lì tutti dispiaciuti, però bisognava. E i Lego erano anche quelle cose che iniziavi la mattina e la sera ritornava nel suo sacco, distruggendo tutto quello che avevi fatto, e a volte un po' tristemente, se facevi una cosetta piccola, vabbè, una locomotiva te la tenevi, ma se facevi una roba grossa, purtroppo la sera poi si rismontava tutto e si ricominciava distrutta, il giorno dopo. Sì, poi venivano distrutte, anche perché, anche se avevi lo spazio per metterle, io il mio robottone gigante che avevo costruito l'ho tenuto un mesetto costruito, perché l'avevo messo sugli scaffali della cameretta, occupava tutti i pezzi. Sì, però poi c'era il problema della mamma che arrivava e dice, si fa la polvere, devo fargli la polvere, e si distrugge, quindi. E quindi alla fine veniva distrutto. E a proposito di mamme con la polvere, mia mamma prendeva tutto, buttava in lavatrice e tirava fuori e li lavava. Mia madre li lavava o in vasca da bagno, riempiva l'acqua della vasca d'acqua, buttava tutti i Lego dentro, sapore, mescolava e uscivano belli puliti, nuovi, profumati. E ogni tanto bisogna farlo, perché i Lego diventano un po' una schifezza se li accumuli, a meno che non li tieni sigillati da qualche parte. Sì, il saccone gigante, quello pieno di Lego, ce l'ho ancora, quello mio dell'epoca. Dell'epoca? Sì, è un saccone gigante che peserà 50 kg pieno di pezzi di Lego. Mi ricordo il giorno che l'ho aperto, che con mio figlio stavamo finendo il modellino dell'X-Wing della Lego e non trovavamo un pezzettino. Allora ho detto, aspetta che vado a vedere nell'archivio. Sono andato giù, ho aperto, mi ricordo la fa mio figlio quando ho aperto questo SRAM, 500 milioni di pezzi. Si è buttato dentro a nuotare come Paperon dei Paperoni. Esatto. nel deposito. Esatto. Comunque A Roma poi è diventato un insulto, a pezzo di Lego, cioè proprio veramente. No. Ah. Che ne so, io mica sono di Roma. Però era credibile, era Beh, credibile. Ormai dai, sei quasi di Roma. Io? No. Così. No, che è, beh, cioè, non so. Vabbè, no, no, in realtà probabilmente, cioè nel senso, non è anche capitato di sentirlo a pezzo di Lego, però non è che è diventata una cosa così comune, magari qualcuno gli viene così da genialata e magari modifica quelli che sono gli insulti tradizionali con delle versioni alternative, insomma, diciamo così. Va bene, vabbè, bella puntata, però vedo che 2 su 4 non partecipano praticamente. Se, io anzi da... qualcosa l'ho pure detta, molto esatto. Di più di quanto mi aspettavo di non dire, insomma. Però a questo punto, vai, prego. Vai Davide. No, volevo solo concludere una roba sui regali, quelli che tu da piccolo ti aspettavi Lego, chiedevi Lego e ti aspettavi che arrivasse una scatola media, piccola, grossa, ma tu sognavi lo scatolone grossissimo. E ti arrivavano e dicevano: ah, ti abbiamo preso il meccano. Ti veniva voglia di. È bello anche il meccano. No, è bello. A me piace di più il meccano. No, cazzo, il meccano era roba figa, ragazzi. Cioè, sì, molto. Però a me la piazza me la rifilavano come alternativa a Lego, capito? Dicevo, io volevo un Lego. Era una cosa diversa. E lo so, sì che è diversa, però io volevo il Lego. Cazzo. Volevo a me piaceva meccano. Molto di più il meccano o il piccolo chimico. Allora i piccoli chimici lasciamo stare, che avevo occupato le esplosioni atomiche. Ho fatto di quei danni con il piccolo chimico. No, il meccano era molto bello, ma era una cosa diversa, ma mi piaceva molto anche il meccano, anche se in realtà il meccano era più adulto, se vuoi, del Lego, sì. Come gioco l'ho giocato che era già più grande del Lego, anche a me piaceva, però io l'ho vissuto molto spesso come delusione, perché mi aspettavo una cosa e teneremo un'altra, e chi te lo regala per lui era indifferente, ma tanto il Lego, quel meccano, il Plastic City, basta che sia una roba che si attaccano, no? E sì, per lui sì. Era indifferente, io invece rimanevo deluso tanto, ecco. Mi ricordo queste delusioni. Speravo in un bel motore nuovo, in qualcosa di invece o il microscopio, quelli che avevano, che erano bellissimi, quelli vetrini, esatto. Io invece se penso a una delusione, ecco, come ha fatto venire in mente, non c'entra niente, ragazzi, è un po' off topic questa cosa, però io non sono praticamente mai stato deluso dei regali, ma proprio perché in realtà non è che, cioè a me già un regalo, che mi arrivava un regalo ero comunque contento, quindi alla fine quando è. Però mi ricordo che una volta non so per quale ragione, ma aspettavo che mio padre mi regalasse una cosa e invece era un'altra, e lì sono rimasto deluso lì per lì, lui poi se ne accorse, poi in realtà invece il regalo mi era anche piaciuto, però ero talmente concentrato sul fatto che era un'altra cosa che lì per lì, capito, era uscita. E non so se vi ricordate, sulla rivista List, verso insomma i periodi più, penso forse verso quasi la fine, insomma, della rivista, pubblicizzavano spesso quei mini robot che si potevano costruire, cioè che si potevano assemblare praticamente. Non so se ve lo ricordate. Quelli, sì, quelli piccolini con la cupola trasparente. Bravo, ruote. bravo. Sì, me li ricordo bravo. Molto bene. Sì, che sì, poi sì. Fu un regalo invece figo, perché era particolare come cosa. Molto bello, sì, sì. Cioè, magari, cioè, nel senso, dopo che l'avevi sistemati e li facevi camminare avanti e indietro, dopo sì, era. Poi erano programmabili, cioè riuscivi, erano... potevi fare diverse cose, divertenti, sì, però mi piacque moltissimo il regalo, però lì per lì non ricordo neanche che cosa mi aspettavo e non era quello che mi aspettavo, quindi sono rimasto la Barbie. La Barbie ormai basta, perché ne ha già avute tante. La Barbie, poi... mica le mie deturpavo gli altri. Scusa, eri uno stalker di Barbie, esatto, sono un molestatore di Barbie altrui, insomma. Allora, io giusto per un ricordo che mi è venuto in mente adesso, che non c'entra niente, ma che è sempre legato leguato, no, che invece in tempi postmoderni, io e mio amico Graziano, che ogni tanto menziono in qualche mio episodio, col quale abbiamo fatto tantissime cose nel nostro periodo, forse uno tra i più belli della vita, negli anni 90, 2000, 80-90, 2000, abbiamo fatto di tutto, ma c'è stato un periodo un po' sul robotico, dove abbiamo fatto tante cose robotiche, lui era una mente vulcanica e faceva un sacco di cose, però ci scontravamo con la difficoltà di fare dei prototipi di qualsiasi genere, no? Per cui anche solo fare una cavolata che si muove, tu fai l'elettronica potente, bella, finché vuoi, però poi per arrivare alla meccanica, per cominciare a vedere se questa elettronica fa quello che deve, eravamo sempre un po' con dei problemi e abbiamo sempre iniziato facendo una cosa con i Lego in pratica, quindi mettavamo giù una roba, delle ruote, ci attaccavamo dei sensori, ci attaccavamo sopra la nostra elettronica, vedevamo che funzionava, da lì poi dopo passavamo alla realizzazione di un progetto meccanico più, più realistico, più, insomma, fatto meglio, più preciso, però il Lego ci serviva per validare il funzionamento di determinate cose, come se guardate anche adesso su internet nei video di YouTube di quelli un po' tutorial per giovani che fanno vedere come si utilizza l'Arduino eccetera, fanno per esempio l'esempio di un semaforo piuttosto che di un garage con il controllo con l'RFID, è tutto sempre fatto di Lego, cioè la sbarra che si apre pilotata da un servocomando che è di Lego, c'è il semaforino che è fatto di Lego con tre LED dentro, è la cosa più semplice da usare, quello tu fai la meccanica, il prototipo che ti fa vedere che la tua idea elettronica funziona, no? Poi non ha importanza che sia il semaforo perfetto fatto come il modellino vero che compri in negozio di modellismo, ma che indica, che indicativamente lo ricorda e funziona, hai fatto un buon lavoro, hai spiegato e hai fatto correttamente il tuo compito, nel senso il compito era basato sulla programmazione di Arduino e l'hai messo in pratica con questo semplice modello che va benissimo. No, mi sembra che siamo andati molto off topic in questo caso, però insomma volevo coinvolgere prima di chiudere la puntata Roberto Tomaiuolo, perché insomma lo coinvolgo adesso, voi non lo vedete perché siamo in radio, però noi lo vediamo, no? Quindi ci devi fare le mosse. Dai, su. Cos'è questa? Dormire. Com'è dormire? Come Lego. Salutare. Ma perché lo sta facendo Davide? Lo doveva fare Roberto. Che brutte cose, ragazzi. Che brutte cose. Senti, tara, tara, tara, brutte cose, ragazzi. Cosa c'entra questo con il Lego? Brutte persone. Niente, non c'entra niente, però. No, ci serve per portarci con la mente negli anni '80. Esatto, era così per coinvolgere Roberto che non ha detto niente. Ma comunque, che palle che sei stasera, eh? Sei proprio noioso. Scusa, stiamo giocando, giochiamo un pochino. Più che altro. Io nasco così. Che? Nasco noioso io. Sei nato noioso. Lui quando è nato non piangeva, lui borbottava. No, lui piangeva e creava noia. Creava noia. Che brutta cosa che hai detto, insomma. Vabbè, Carlo, allora hai degli elementi con quale concludere la puntata? Perché poi abbiamo delle cose da dire. Abbiamo delle cose da dire. Ne abbiamo parecchie da dire, però vabbè, spero che comunque la puntata sia piaciuta, anzi no, spero, sono sicuro che è piaciuta a tutti tranne a voi due. No, no, a me è piaciuta. E riceverete per questo tanti insulti dagli amanti. No, ci sta che ogni tanto c'è qualche episodio dove qualcuno di noi quattro non ha avuto quando voi parlerete di Doctor Who, che ne so, io sarò lì a guardarvi e dirò io non ho mai visto un episodio di Doctor Who. Il prigioniero, non è Doctor Who, ma il prigioniero l'ho visti, ma poi parlando di Doctor Who, io non ho capito perché dite Doctor Who, che è cinese, una serie cinese Doctor Who, ma io non l'ho mai visto, non so come si dice, ma è cinese in realtà. In realtà sì. No, per esempio ci sarà sempre un episodio dove qualcuno di noi sarà un po' meno, e questo è andata così, ragazzi. Ok, allora relativamente a quando eravamo futuro, allora ragazzi vi annuncio, perché già ho trovato, insomma mi sono già accordato, la prossima puntata la fa Roberto, poi la fa Davide, e poi dato che si è chiuso il primo ciclo di noi quattro, ci sarà, questa è una novità di questa stagione, il primo ospite di Quando Eravamo Futuro, perché facciamo un ciclo di quattro più un ospite, un ciclo di quattro più un ospite. Il primo ospite, quindi fra tre settimane, ma fondamentalmente, sarà Alex Raccuglia, ma non vi dico il tema che è molto interessante, insomma, poi in realtà sono temi che abbiamo già girato, gironzolato intorno, però poi alla fine comunque è interessante ritornare, quindi è un motivo in più per seguire, insomma, Quando Eravamo Futuro, perché i prossimi temi, e poi io ho il mio prossimo tema fra quattro roba tosta, insomma, forse roba tosta, secondo me è un po' come questa puntata, cioè che interessa solo a uno e tutti gli altri stanno lì che ascoltano. Non è che interessante, sono sempre interessanti, sì, se sì, magari no, non ne sappiamo molto, no, no, è vero, esatto, però è comunque carino. E detto questo, invece stiamo per tornare con archeologia informatica. Carlo e Roberto, a voi la parola. Sì, io lascio quello serio perché dipende da lui essenzialmente. Quello sul fiume serio, come hai detto prima. Comunque, sì, abbiamo registrato una cosa, però adesso abbiamo già spoilerato in parte sui social e da qualche altra parte. No, non, devi, addirittura non devi dire il cosa, dire, però, cioè, puoi dire sì, diciamo stiamo che per uscire con una puntata che sarà un po' così, un po' colà. Vai. Un po' così, un po' colà. Personaggi famosi. Abbiamo intervistato un personaggio importante nella storia dell'informatica personale, nella storia del home computing per essere precisi, e a lungo è uscita un'intervista molto molto interessante, piena di diciamo rivelazioni che possono interessare molte persone, anche storicamente rilevanti, e quindi non perdete la prossima uscita della, uscirà sicuramente prima sul canale YouTube come intervista video in inglese, cercheremo di fare il possibile per mettere i sottotitoli in italiano, e poi non so se riusciremo, magari la metteremo comunque in podcast in inglese, magari con un intro fatta da noi in italiano e un'uscita commentata in italiano. Esatto. Non riusciremo penso a fare il voice over perché è complesso, abbastanza lungo, diciamo, insomma, diciamo sì, che sarebbe un lavoro mastodontico che non insomma onestamente poi diventerebbe veramente proprio tecnicamente faticoso. Chi è appassionato e ha anche voglia, perché tanti dei nostri ascoltatori ascoltano anche podcast in inglese, diciamo sono avvantaggiati da questo punto di vista, e potete sentire l'intro e l'outro comunque, e casomai rimandare anche al video su YouTube che uscirà, perché lì sicuramente ci saranno i sottotitoli, perché con quei sottotitoli, esatto, grazie a Roberto sono più agevoli, diciamo, a un certo punto di vista. Assolutamente. Grazie a Roberto, che se fosse per me, cioè, proprio... Grazie anche per me, figurati. Cioè, proprio quelli automatici di YouTube, proprio. Cioè, the pens on the table. Esatto. Comunque il bello è che appena fatta l'intervista, il protagonista di questa intervista ha lui spoilerato ovunque che aveva fatto un'intervista con noi. Questo è stato sì, no, però anche... l'ha fatto su gruppi privati, dai, quindi non proprio pubblico al 100%, vabbè. Però comunque no, è stato anche divertente, perché vuol dire che gli è piaciuto, che gli è piaciuto, esatto, quindi... esattamente, ma sì, in fondo questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è sempre di archeologia informatica, invece sarà una cosa che faremo prossimamente con Simone, e questo ci vorrà però qualche mese in più, ma abbiamo già progettato, sì, giusto, esatto. Simone, finalmente torniamo sul campo, così come era tempo. È una versione piccola di quello che facemmo per Berlino, non tanto per l'entità del documento, che sarà, anzi forse secondo me anche più interessante di quello che poi abbiamo fatto per Berlino, però più piccola perché la dimensione del viaggio insomma è un po' più diciamo contenuta, però ci piace questa idea, anche il fatto di partire in team per fare un progetto che stiamo organizzando insomma, e che insomma ci riporta un po' sul campo. Però io aggiungo anche, e questo però è una cosa che dico un po' così, potrebbe anche non avere assolutamente senso, fra pochissime settimane, fra 2 settimane circa, noi abbiamo un raduno interno di Runtime, che erano 2 anni insomma che non facevamo e l'avevamo progettato, poi il Covid chiaramente ha rimandato, è una cosa che noi ogni tanto facciamo per trovare sinergie, condividere idee, ma soprattutto per divertirci. E se dovesse capitare che magari Carlo porta qualcosa o via dicendo, magari lo si fa un video insomma, magari per il canale di archeologia informatica, e sì, magari. Vediamo. Sì, ma anzi ci saranno sicuramente in realtà dei video, e anzi segnaliamo la cosa, come giustamente mi ha scritto prima Davide e anche Roberto, si avvicina domenica 3 ottobre, che come tradizione, purtroppo l'ultimo anno era saltato per via del Covid, ma si riprende sicuramente, ci sarà Brusaporto Retrocomputing a Brusaporto, okay, la grande classica dei ritrovi, certo, diciamo degli appassionati di storia dell'informatica, in cui presenteremo come Retrocampus che come archeologia informatica alcuni progetti, tra cui anche la ricostruzione dell'Elector TV Game Computer di Davide, di cui abbiamo già fatto il video che trovate sul canale di archeologia informatica su YouTube, ma sicuramente ci sarà l'occasione di presentare altri progetti e di fare dei video che poi andremo via via a pubblicare sul canale di archeologia informatica. Quindi comunque stiamo iniziando e vedrete che di materiale ce ne sarà parecchio. Brusaporto Retro Computer è una manifestazione comunque aperta a chiunque abbia il Green Pass, quindi se volete venirci a trovare, trovate me, troverete probabilmente anche Davide, anche se non tutta la giornata, giusto Davide? Se verrai a fare un salto. Sì. Ecco, però vediamo. E quindi comunque se Roberto volete proprio ci sarai, no? No, Roberto ci provo. Mi sarai, no. Provi? A Brusaporto ci provo. Temo di non riuscire a venire alla reunion con grande dispiacere, ma vediamo. Quindi se volete venirci a trovare e conoscerci, diciamo, dal vivo, siamo lì a Brusaporto. Brusaporto, ricordo, è un paese in provincia di Bergamo, quindi è un porto che brusa, è un porto che brusa. Bergamo e non Brescia. Simone, Bergamo. Quindi ragazzi, il significato sostanziale di tutto questo, per chiudere veramente, è che stiamo tornando sia con i podcast che con i video. Abbiate un po' di pazienza, giustamente abbiamo un po' lasciato sguarnito il canale dopo, insomma, il grande lavoro che abbiamo fatto, però ho visto che non l'avete abbandonato e questa è una cosa che mi fa molto piacere, insomma. Quindi ragazzi, si ritorna piano piano. Certo, il Covid ci ha penalizzato molto da questo punto di vista, speriamo che non prosegua, insomma, a penalizzarci, perché insomma ci stiamo attrezzando per fare cose carine, insomma. Detto questo, io ringrazio e saluto caro Sant'Agostino, intanto che ho insomma preparato questo episodio d'amore per il Lego. Viva il Lego. Viva la Lego anche, sì, che non vedo ancora il bonifico, però vabbè. Il Lego. Vabbè, volevamo andare. Di solito viva la è un'altra cosa, però Lego. Io mi ricordo in quel bellissimo gioco School Days, mi pare si chiamava, per ZX Spectrum, dello Spectrum, dove potevi scrivere sulla lavagna, che era oltre di la Lego. Ah, scusate, non abbiamo una piccola citazione, vabbè. Ricordiamo che questa settimana è scomparso il grande zio Clive Sinclair. Sì. Ma non era Cliff? No. ho letto Steve. È morto casualmente a 81 anni. ZX 81 anni. Chissà. Attenzione, che qui è tutto materiale per gli amanti del Sarà un blog. Caso? Esatto. La sua vita, diciamo, l'ha fatta. Non è morto giovane. Ecco, poi si è anche divertito. Ma se l'è anche goduta. Molto. Comunque lo ricordiamo perché è un fondamento della storia dell'informatica, soprattutto europea e italiana. Tanti di noi sono cresciuti con le sue creazioni, con quello che lui ha realizzato. E proprio in merito, tutti gli altri, seguono l'intervista che manderemo. Esatto, anche perché poi piano piano uno dietro l'altro, che poi tra l'altro uscirà proprio penso nei prossimi giorni una puntata di Archeologia Informatica con Carlo Sant'Agostino e Stefano Paganini, che hanno fatto insomma una memoria salutiamo Davide Gatti. Buonasera a tutti, grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo sempre che sono sempre attivo anche sui podcast. Io non vi ho mai abbandonato mentre tutti loro sono andati in vacanza a fare bagordi. Io invece sì, ma lo sappiamo che tu hai la macchina del tempo e ce lo vuoi dire. Ho lavorato. Non menzionare questa cosa che stai spoilerando. Tra breve ci sarà dovrebbero esserci un trittico di video molto importanti in collaborazione con un famoso YouTuber. E vediamo cosa ne viene fuori. Però non dico altro. Oh, Davide Gatti sta a fare i soldi. Davide Gatti caccia i soldi, mi raccomando. I soldi. Io caccio. E comunque niente, io gli episodi vanno avanti, sono sempre in mezzo alle balle, dai. Va bene, Roberto Tomaiuolo, salutiamo. E vi saluto, vi ringrazio e spero di poter riprendere anch'io col podcast. Quando magari fra qualche settimana mi lascerà un po' più di tregua. Beh, anche perché la gente lo brama, stanno lì, bramano. Majorana 2 la vendetta. Soprattutto perché la mia barba è bionda, quindi insomma c'è gente che ancora si interroga su questa cosa qua, insomma. Bene ragazzi, buonanotte a tutti, grazie. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti.